Andrea e Morena in Per fare un branco ci vuole un lupo. Storie di specie non classificate. Buongiorno e benvenuti a... Ben arrivati a tutti a Per fare un branco ci vuole un lupo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Bene, un'altra settimana è trascorsa e quindi il tempo se ne va, no? C'era la canzone che diceva... Qual era? Di chi era già sta canzone qua? Celentano. Ah, ok, del signor Celentano. E diceva, tanto il tempo se ne va, ovviamente, perché le settimane scorrono. Tra i sogni e le preoccupazioni. Ah, sì? Ah, ah, sì. Ah, non lo sapevo, questo mi mancava. E siamo ormai alla, se non sbaglio, dodicesima puntata, insomma. Quindi urca, sono passate più di 11 settimane, considerando anche la pausa di Natale. Devo dire che qua ne abbiamo, insomma, di ciccia ne abbiamo già avuta, eh? Eh sì, poi oggi splende il sol. Lo so che non c'entra niente, però mi piace tanto. Quando splende il sole sono già di buon umore, solo perché splende il sole. No, no, ma guarda, devo dire, apprezzo particolarmente anch'io, nonostante io abbia sempre detto che amo di più il freddo, dopo quest'anno in cui abbiamo vissuto in una casa in cui, diciamo, che riscaldarlo è praticamente un'impresa, diciamo, biblica quasi, e quindi stando particolarmente al freddo, ovviamente, devo dire che sto iniziando ad apprezzare il caldo. Carino quello eccessivo, ovvio, però sto iniziando ad apprezzarlo in maniera importante, devo dire. Eh sì, ho sempre detto, i primi 30 anni della mia vita in montagna, i prossimi 30 al mare, poi deciderò che cosa fare. Sì, sì, no, no, no, benissimo. A parte mare o montagna, diciamo che proprio perché il freddo mi ha scassato un po', come dire, no, questo tempo uggioso, eccetera. Per carità, bellissima anche la zona dove in questo momento viviamo provvisoriamente, che è appunto la provincia di Torino. Bella, bellissima, fantastica, meravigliosa. Ugualmente, diciamo che il meteo è... I colori non è che siano proprio, diciamo, eccezionali, se vogliamo. Ma anche i colori dell'autunno hanno il loro fascino, per carità, tutte le tonalità del rosso e tutto quanto. È notevole pensare che durante l'autunno ci siano le tonalità del rosso quando in realtà inizia a far freddo. Il rosso invece ricorda un pochettino di più il caldo e è la parte più calda, no? Invece ci siamo... D'autunno uno si prepara al freddo poi. Sì, sì, no, beh, sicuramente, sicuramente. Però diciamo che comunque sia, vabbè, la sua parte... Bello, quando non mi considera dice sì, sì, sicuramente cambia discorso. No, no, no, no, no, non è che non ti ho considerato. No, in realtà stavo guardando le marachelle di uno dei nostri cani, in realtà. Devo ammettere, perché ovviamente noi cosa facciamo? Noi registriamo sempre, non dici, uno studio di registrazione, sì, sicuramente. No, no, non è uno studio di registrazione, o meglio, anche se fosse uno studio di registrazione, avremo sempre appresso queste bestiacce che ci circondano H24 e che fanno sempre un sacco di guai, soprattutto i cuccioli. Diciamo che quando erano nella pancia della mamma erano un po' più gestibili. Va bene, detto questo, direi oggi volevo parlare di un argomento, se tu sei d'accordo, Morena, e se non sei d'accordo io lo propongo lo stesso, poi vediamo cosa mi dici. O comunque, che riguarda una collaborazione con cui che abbiamo già stretto da un pochino di tempo, e riguarda una parte, diciamo, sempre della nostra, come dire, della nostra attività, se vogliamo, sempre legata agli animali, ovviamente. E si tratta di un'applicazione. Uno dice, che cavolo di applicazione sarà? Per la ricerca, GPS, no, nulla di tutto questo. È un'applicazione social. Tu sai cosa sono i social, no? Sì, okay. Ti in silenzio. Diciamo che in un'epoca in cui di applicazioni se ne scaricano tante, un po' per tutto, questa è finalmente un'applicazione utile, un'applicazione intelligente, perché soprattutto quello che conquista me di questa applicazione è la parte della geolocalizzazione, che ti dice in tempo reale dov'è lo studio veterinario più vicino rispetto a dove sei, dov'è il parco giochi dove c'è un'area cani più vicina rispetto al luogo in cui ti trovi, oppure tutto quello che riguardano i servizi per animali. Ecco, questo non è il classico social, per carità, si può mettere le foto del proprio compagno di vita, dei propri compagni di vita nel nostro caso, si possono condividere cose, ma principalmente ha una funzione utile. Sì, sì, beh, sicuramente sì, è utile. E, proprio per i motivi che citavi tu, e poi ovviamente utile può essere sicuramente importante, al quale però c'è anche legato un, uno stile anche piuttosto accattivante, divertente, di facile, diciamo, comprensione, tra l'altro, e di facile anche utilizzo. Questa applicazione fantastica si chiama Bow Wow. I titolari Peter e Giuseppe sono chiaramente nostri amici, insomma, li conosciamo. Sono persone, devo dire, estremamente professionali, estremamente simpatiche. Loro vivono, tra l'altro, in UK. Simpatici e orribili, sì. Vivono in UK e, diciamo, noi siamo diventati un po' gli ambasciatori, diciamo, di questo progetto qui in Italia, che diciamo portiamo avanti con estremo piacere. Questa applicazione, che si può tranquillamente scaricare su qualunque tipo di dispositivo, sia Apple che Android, ha, ripeto, un facilissimo utilizzo, quindi scaricarlo è molto semplice. Si va sull'App Store piuttosto che il Play Store, Play Game, che cavolo è dell'Android, non me lo ricordo. Comunque si va e si scarica questa applicazione, si scrive proprio Bow Wow, quindi Bow, sì, Bologna, Ancona, Udine, Whisky o Otranto Whisky, esattamente, è molto semplice come si pronuncia, Bow Wow, e attraverso questa impostazione si può accedere a tutti quelli che sono i servizi, quelli gratuiti ovviamente, quindi un'applicazione ovviamente gratuita, e si possono accedere a tutta una serie di servizi ovviamente già compresi per il solo fatto di averla scaricato, quindi non costa nulla se non i giga ovviamente per scaricare questa applicazione, ma sono veramente ridottissimi. A quel punto voi avete la possibilità di registrarvi, attenzione, non come voi stessi, se non ci sarà per richiedere un'email, ovvio, ma con il profilo del vostro cane o, attenzione, del vostro animale da compagnia, perché ci sono su Bow Wow anche gatti e magari ci saranno anche rapaci tra breve, chi può dirlo? No? Sì, noi iniziamo a buttare così, a gettare l'ancora in questo senso. E ogni individuo avrà la possibilità di avere, se non sbaglio, 5 profili, quindi se avete 5 cani come ne abbiamo noi, con un profilo solo avete possibilità di gestirne 5, quindi il profilo di Bronson, il profilo di Artemide, il profilo di Cheyenne, Soyala, Naftalina, insomma potete gestirli tranquillamente. Attraverso questi profili voi potete mettere ovviamente in maniera molto simpatica le foto, potete mettere il profilo del cane, quindi la data di nascita, le caratteristiche e tutto ciò che ne consegue, esattamente come un social, come Facebook, tanto per intendersi, quindi tutto quello che riguarda appunto questo tipo di diciamo di attività. Come diceva Morena, questa è sicuramente la parte quella più utile, quindi oltre la parte divertente, di cui ne parleremo anche, c'è la parte più utile, che ovviamente riguarda la parte, come dicevi tu, della parte veterinaria, no? Sì, la parte più medica, nel senso che il mio cane sta male, sono i giardinetti dall'altra parte, vabbè, noi ci troviamo a Torino, quindi dall'altra parte di Torino, e non conosco il veterinario di zona, non so dove recarmi. Già il momento è concitato, il cane non sta bene, tutto quanto, il proprietario o il custode, come amiamo chiamarlo noi, è agitato chiaramente perché non sa che cosa sta succedendo. Per di più, talvolta trovare il veterinario non è così facile, perché vai sul motore di ricerca, cerchi veterinari in zona e tutto quanto, lì invece un'applicazione che hai scaricato già sul telefono, semplicemente clicchi sulla casella della ricerca appunto della struttura sanitaria più vicina. È decisamente più comodo, più intuitivo, soprattutto in un momento in cui magari può essere concitato. Io mi sono trovata nella situazione in cui avevano investito il mio cane, un idiota, che definire idiota è dir poco. Non il cane però. No, il cretino che andava oltre gli 80 all'ora in un controviale e ha investito mia mamma il cane, in realtà. Mia mamma per fortuna è rimasta illesa, ahimè la cucciolotta di 4 mesi che aveva al guinzaglio non è riuscita a sopravvivere. E comunque in quel momento, quando ho recuperato il mio cane, avere un'idea precisa, io per fortuna comunque ero vicino casa, quindi sapevo dove era il veterinario, l'ambulatorio più vicino, ma avere un'idea precisa di dove portare il cane, soprattutto perché sei agitato, perché non sai che cosa sta succedendo, perché vedi il tuo cane che sta male, avere un'idea ben precisa di dove portare il cane può essere utile. Sicuramente, vabbè, adesso facciamo così, parliamo solo prima delle cose, quelle utili, così ti diamo, come dire, diamo soddisfazione in questa cosa per te, poi dopo parliamo anche delle cose poi divertenti. Non che le cose utili non siano divertenti, per l'amor del cielo, anzi. Però diciamo ci sono cose più... Guarda, no? Che per una come me che è la sindrome del controllo... No, no, no, ma infatti... L'idea di avere sotto controllo anche questo aspetto è fondamentale. No, ma infatti, infatti è ti una davo... cosa che dici... Cioè ti fa proprio vivere meglio. Sì, sì, ma infatti ti stavo dando soddisfazione in questo, così poi parliamo invece della cosa più simpatica, più divertente, no? E, quindi dicevi anche i veterinari, ma non solo i veterinari, ci sono anche le aree di divertimento, quindi le classiche aree cani, se vogliamo. Certo che sì. Ci sono attività commerciali, appunto per sapere dove andare a comprarsi la pappa, abbiamo tutte le attività quindi di toilettatura, di educazione cinofila, buongiorno, ci siamo anche noi infatti, le attività, di tutte le attività diciamo che possono in qualche modo interessare in modo diretto, in modo utile la vita del cane, no? Un mondo scodinzolante. Esatto, è ovvio che per altri animali ci sono meno, diciamo, diciamo la cosa più importante è sicuramente quella dei veterinari, anche perché diciamo un'area cane e un gatto può interessare poco, se vogliamo, se vuol finire sbrindellato, o quantomeno a un rapace, ad esempio l'area cani anche lì può interessare abbastanza in maniera relativa, voglio dire, no? Ma dipende, alcuni falchi si divertono a fare il censimento dei cani, come al Masak, si diverti un sacco a fare questa cosa. Sicuramente sì, però diciamo che magari non è proprio di primo utilizzo. I veterinari invece sono ovviamente di utilizzo per... Beh, anche per qui comunque i veterinari rispetto ai rapaci... sì, beh, cioè, spegniamo un velo pietoso, via. Ok. A volte ti guardano, ah, che bello, un rapace, non l'avevo mai visto, non so neanche di cosa si tratta, ok, tutti cascano. E a te cascano Barbie, baffa, baffi, barba, orecchie, naso e capelli. Mi è già capitato di chiamare veterinari così in emergenza in posti dove magari non conoscevamo. Tendenzialmente prima cerco un centro veterinario intorno che tratti anche rapaci, però a volte ci siamo trovati appunto in posti dove non conoscevamo e ho telefonato per un'informazione o perché magari il rapace lo vedevo che non stava particolarmente bene e sentirmi rispondere dall'altra parte: ah, che bello, se me lo porta giù vedo il primo. Ok, magari la prossima volta, Infatti Morena in questo è praticamente senza capelli, quella che ha un parrucchino, perché sono già cascati innumerevoli volte. Però diciamo che sì, e oltretutto è un'applicazione che anche se magari tu che ci stai ascoltando hai un'attività che si occupa di questo, ovviamente c'è la possibilità di iscriversi anche come attività, quindi come allevatore, quindi come toilettatore, come negozio di pet food piuttosto che in generale di articoli per animali, come veterinario, ovviamente c'è l'opportunità di iscriversi, l'iscrizione anche qua è totalmente gratuita, ci sono poi come per i privati la possibilità di fare degli abbonamenti a dei prezzi tra l'altro molto molto ridotti per avere più visibilità, per avere più diciamo risonanza all'interno di questa applicazione e oltretutto avendo anche un sito internet ovviamente avere più pubblicità in genere proprio riguardo anche la propria attività, insomma, quindi il fatto che ci si possa trovare, ovviamente non è stato fatto un censimento di tutte le attività ma sono le attività che hanno deciso di inserirsi in questo tipo di applicazione, no? Quindi sì. Sicuramente un'ottima opportunità per quello che riguarda la visibilità per le aziende, anche perché se io ho l'applicazione andrò sicuramente in quell'attività, anche perché quell'attività è stata selezionata, vuol dire che in questo caso noi che siamo ambasciatori per l'Italia conosciamo il veterinario tal dei tali che ha effettuato magari anche un abbonamento eccetera eccetera, quindi l'abbiamo certificato, abbiamo visto anche soprattutto conoscendolo personalmente che non è un cialtrone e che ovviamente fa della sua attività una cosa seria, soprattutto questo perché spesso soprattutto in Italia immagino siamo abituati che basti pagare, ma credo che questo sia un po' universale, no? Tendenzialmente non solo in Italia, ma diciamo su questo ti posso dire una cosa sicuramente che avendo fatto diversi avendo lavorato con diversi allievi all'Academy, quindi al ai programmi di educazione cinofila, quindi per diventare educatore cinofilo, sì, la maggior parte delle persone pensa di pagare per prendersi il diploma, anche se il diploma ovviamente vi potete pulire tranquillamente il naso ovviamente, però basti quello per diventare educatore, invece no, non basta quello. Infatti di tanti allievi che sono passati ne collaboriamo con uno solo che è Sasha. Vabbè, apriamo una parentesi sull'importanza dell'attestato nella vita quotidiana. Sì, nella vita quotidiana, ma come la laurea, ti puoi tranquillamente pulire il naso sempre. È fantastico vedere come un sacco di persone che si avvicinano alla falconeria piuttosto che alla cinofilia ti chiedono: sì, ma poi mi rilasci l'attestato? Sì, ma se faccio questo o comunque l'attestato, ma me lo dai l'attestato? Sì, te lo do, ti do una testata. No, sì, te lo do l'attestato. Semplicemente io, quello che dico sempre io per la parte della falconeria, ed è analogo quello che dice Andrea nella parte della cinofilia, chiaramente l'esperienza che fa un educatore cinofilo, chiaramente l'esperienza che fa un falconiere. Ma dai, non è l'attestato ENCI, APNEC, SIWA, SAS, FISC, FLASCEP, Genius? No. No? Ma porca miseria. Ahimè no. E con quelli ti puoi sempre pulire il naso. C'è un sacco di roba per pulirti il naso. Sì, dire. sì, è una scorta, sai, in primavera con le allergie può essere. Io ho tra l'altro l'allergia, quindi potrebbe essere utile. E quindi sì, è l'esperienza ed è quella a cui le persone tendenzialmente pensano per ultima. Sì, poi faccio anche esperienza. Nel frattempo sono, però poi faccio anche esperienza. No, se non fai esperienza non sei. No, la cosa curiosa è che a parte alcune attività, tipo non so, il medico chirurgo, queste cose molto particolari, tendenzialmente le persone pensano di doversi prendere la laurea per diventare un uomo di grande successo, quando in realtà gli uomini di grande successo fanno quello che devono fare e poi prendono la laurea ad honorem. Questo è interessante, ad esempio, no? Già. Comunque, per ritornare a quello che stavo dicendo, l'importanza di queste aziende che si affiancano a questo tipo di applicazione, appunto, è proprio il fatto che sono testate, nel senso, tu Paolo Rossi che hai la tua elettatura non basta semplicemente. C'è un mio amico su Facebook che si chiama Paolo Rossi. Ah sì? Sì, è del Friuli, se non sbaglio, tanto simpaticissimo e si occupa di cani, pensa. Ma dai, fantastico, mi è venuto in mente il comico Paolo Rossi. Ah, okay, ho citato Paolo Rossi, vabbè. Che ti occupi appunto del tuo negozio e tua elettatura, sì, ok, puoi iscriverti e tutto quanto, ma comunque se sei nel nostro territorio, fidati che una visita noi te la facciamo per certificare se è vero, e probabilmente portiamo un nostro ambasciatore a quattro zampe per verificare se come tratti i cani, per verificare se è vero che sei così pet friendly, perché non necessariamente il fatto che tu abbia una toilettatura significa che tu abbia un buon modo per comunicare con gli animali. Ma sai, ieri ne parlavo, ne parlavo con una delle nostre custodi che hanno deciso di adottare uno dei nostri cucciolotti, Elisa, la quale appunto mi chiedeva per lavare il cane, quindi la toilettatura, eccetera. E ovviamente lei vive tra l'altro abbastanza distante da noi perché vive nella provincia di Napoli, e quindi in questo momento siamo abbastanza distanti perché ovviamente stando in provincia di Torino siamo abbastanza distanti. E mi chiedeva, il concetto l'hai chiarito, che siamo abbastanza distanti. Sì. E mi chiedeva come poter comprendere se il toilettatore a cui riferirsi può essere un buon toilettatore o un pessimo toilettatore, visto che appunto gli abbiamo comunicato che una cattiva toiletta, quindi un cattivo modo, può giocare ovviamente gran parte dell'esperienza futura, poi ovviamente del cane stesso, che è molto piccolo, ma sì, poi quasi 4 mesi. Rischi di giocarti il rapporto con l'acqua, il rapporto proprio quando entra nella toilettatura, avere una tigre del Bengala, il cane si trasforma in tigre del Bengala. Esatto, se non, anche perché poi diventa grosso. Se non ha fatto una buona associazione prima. E ovviamente le caratteristiche tecniche è difficile spiegarle al telefono. L'unica cosa che le ho detto è stato innanzitutto vedere come lui o come lei interagisce con un altro cane mentre sta lavando quest'altro cane, quindi magari vedere proprio la sua attività nello svolgimento reale. Stare sempre appresso al cane, ovviamente, e poi le ho dato un consiglio che secondo me è un consiglio molto importante che ho visto essere a volte molto, non è chiaramente un dato scientifico, però molto identificativo di chi compie un certo tipo di mestiere a contatto con gli animali, che possa essere falconiere, cinofilo, veterinario, titolare di un negozio, toilettatore, che cavolo, ne so altri che possono interagire, comunque diciamo in generale dog sitter e quant'altro. è proprio il fatto di quando tu ti avvicini con un cane o con un altro animale ad un cane, con un cane, no, tu proprietario, tu custode, sì. Ah, okay. Quest'altro professionista, che possa essere educatore, addestratore, toilettatore e quant'altro, come interagisce? Guarda il tuo cane? Gli fa anche solo un semplice sorriso? Ha desiderio di accarezzare il tuo cane, di entrare in contatto col tuo cane o col tuo gatto o col tuo rapace o quello che sia, attenzione, vale tutto allo stesso senso. Ha la curiosità di chiedere se quel cane, quel rapace, se questo professionista può avvicinarsi al tuo cane, tuo rapace, eccetera eccetera. È proprio un discorso in cui dici ha quella sensibilità, vedi quella passione nell'avvicinarsi al tuo animale? Quella persona cerca una comunicazione, la comunicazione che tendenzialmente utilizza l'animale che hai tu. E per me, devo dire, è un aspetto estremamente importante che identifica già il buon 70-80% del professionista che è di fronte. Inteso, alcune persone mi hanno detto sì, però magari se fai questo tipo di attività, veterinario, educatore, eccetera, eccetera, tutte quelle che elencavo prima, da un tot di anni, magari hai perso quella scintilla, no? Bah, io su magari questo magari non ce l'hai mai avuta. Magari credo, infatti, fuori una scintilla talmente schifosa che ovviamente è andata e si è spenta nel giro di pochi anni. Io non ci credo assolutamente a questa cosa. Se ce l'hai davvero, è talmente forte, è talmente guida la tua vita. Cioè, io non potrei non fare le vocine idiote quando vedo un cane, non potrei non cercare comunque un'interazione quando vedo un rapace. Comunque resto lì, quantomeno resto basita e lo osservo, nonostante comunque di rapaci qualcuno l'abbia già visto e nonostante di cani qualcuno l'abbia già visto, ma questo vale per qualsiasi specie animale. In più, il fatto, ad esempio, forse ne avevo già parlato, quando ho conosciuto Morena, nonostante non avessi mai interagito con i rapaci, per me i rapaci fossero solo, tra virgolette, due artigli e un becco, comunque ho avuto la curiosità, nel momento che ho trovato di fronte una persona con passione, ho avuto un'estrema curiosità nell'entrare in contatto, perché nonostante io sia cinofilo, quindi con i rapaci non c'avevo niente a che fare, allo stesso tempo avevo la curiosità, visto che si guarda e riguarda sempre la parte animale, come avrei domani la curiosità dovesse arrivare una persona in un centro commerciale con una tigre al guinzaglio. Mamma mia, la fermo e gli inizio a chiedere una marea di cose. Se questa persona ha la passione di rispondere e ha la desiderio ovviamente di rispondere, gli inizio a chiedere un sacco di roba. Perché? Perché c'è quella scintilla, nonostante sia io che Morena lavoriamo nei nostri settori da un cospicuo numero di anni, se vogliamo, in diverse, tra l'altro, situazioni, quindi non solo in una situazione, quindi ne abbiamo viste tante di situazioni, sia per quello che riguarda la falconeria, sia per quello che riguarda la cinofilia. Nonostante questo, sì, possiamo aver perso la passione nei confronti di alcune realtà, questo assolutamente sì. E perché le abbiamo conosciute. Esatto, più che la passione abbiamo proprio avuto uno schifo proprio in diversi tipi di realtà. Ecco perché vi dicevo tutto quell'elenco di certificazioni che potete tranquillamente pulirvi il naso. Nonostante questo non ho mai perso, e anche Morena ha mai perso, la passione verso queste specie animali. Quindi nel momento che vediamo un animale ci soffermiamo immediatamente. Ecco, questo può essere sicuramente un buon... un buon metodo, sì, per comprendere chi abbiamo di fronte, che tipo di professionista. Quindi, tornando al discorso di Bow Wow, ecco, questo è sicuramente, noi andiamo a certificare, a vedere chi cavolo sei, insomma, no? Assolutamente sì. E poi, vabbè, e soprattutto oltre noi ci sono i nostri giudici più severi, che sono i nostri compagni di vita a quattro zampe. Esatto, sicuramente sì, loro sono quelli che hanno la vista più lunga sicuramente. E oltre questo, in questa applicazione parliamo della cosa più simpatica, ovviamente, che appunto è la sistemazione e l'ordinamento social come Facebook, per cui c'è il profilo personale del cane, del gatto, piuttosto che del rapace, piuttosto che della lontra, nonché del cincillà, nonché del criceto, ok? E anche qualche rettile. Adesso abbiamo una nostra amica che ha il cincillà, quindi gli si è aperto il mondo del cincillà. Ma sì, ma perché due cita il cincillà. Fantastico questa cosa del cincillà, mi fa ridere il cincillà. Io ho sempre sognato un cincillà, non ho mai avuto un cincillà. Per il momento teniamoli così com'è. nel senso, bene la nostra lieva, cioè il cincilà, lo vediamo, simpatico, poi va a casa sua, che secondo me è una buona, è una buona cosa. Comunque sia, quindi dicevo, anche una, un social, come dicevo, con i profili, eccetera, eccetera, quindi anche tartaruga, tanto per dire, potete segnarvi quindi il nome, la data di nascita, eccetera. Che c'è? Stavo pensando all'area cani per la tartaruga, non è il massimo. Carino, l'area cani con le tartarughe, la geolocalizzazione. Della sera, quando si sveglia dal letargo ci possiamo beccare lì. E comunque sia, quindi c'hai una serie di servizi, ad esempio c'è simpatico il Daily Bark. Il Daily Bark è semplicemente il fatto come gli aggiornamenti di stato di Facebook, in cui tutte le persone scrivono una marea di cavolate. Quindi oggi mi sono alzato e ho fatto la mia colazione con caffè, latte e biscotti. Lì invece potete mandare la foto del cane con appunto una dicitura sotto del cane che sta facendo determinate cose, eccetera. Un cane che sta facendo la popò e dici: oggi io sto facendo la popò. Esattamente come succede in Facebook, in cui ci sono un sacco di persone che si fanno i selfie sul cesso, ad esempio, che è una cosa abbastanza, sembra aberrante, eppure la maggior parte dei selfie avvengono sul cesso. Il gusto discutibile del genere umano che sta trascendendo, esatto, sempre di più. Già, io dicevo: ok, perché devi farti una foto nel gabinetto? Cioè, nel senso, allo specchio, ma che si vede che è un gabinetto, cioè è follia. No, no, anche sul cesso, sul cesso, cioè, quindi siamo arrivati veramente, sembra una gara a chi fa peggio. Quindi uno dice: cosa fotografo un cane che fa la popò? Sì, è la stessa cosa di un selfie sul cesso, non è che cambia tantissimo. Comunque, vabbè, ci saranno poi le custodie apprensive che comunque, sì, il mio l'ha fatta così, il tuo come l'ha fatta, la foto delle cacche, vabbè, come, una cosa abbastanza come con le mamme, come con le neomamme. Vabbè, e quindi c'è Daily Bark, e poi abbiamo anche lì la geolocalizzazione, per cui supponiamo che io abbia il mio profilo di Bronson, Morena il suo profilo di Artemide, e io mando un messaggio dicendo: guarda che sono in quest'area cani qua. Solito, okay? Marpione. Ma che ne so, tanto non c'è, cioè non c'è la possibilità di vedere se tu sei uomo o donna. Ho capito, no, ma non mica dicevo te, il solito Marpione Bronson. Ah, Bronson, cioè, certo, subito vedere Artemide con suo peluso. Ah, beh, certo, chiaro, in quel caso quindi dici, c'è anche la la parte di esattamente wedding, come nei wedding planner dei cani. Comunque, esattamente come nei social, è sì, uguale, stessa cosa. Quindi, e qui sfrutta una delle, tra l'altro simpatico, una degli studi scientifici che sono stati fatti, che ad esempio i cani, o comunque gli animali, aiutano a conoscere nuove persone, eccetera, eccetera. Su questo stendiamo un velo pietoso, perché tu devi solo tacere. No, perché, scusa? Tu devi solo tacere. Quando ci siamo conosciuti, avevi appena girato un video dove spiegavi questa cosa fidanzandoti con un'altra persona. Certo, mi sono fidanzato con questa persona per 30 secondi, anche perché la cara Morena qua a fianco ha tardato, al posto di arrivare alle 6 del pomeriggio, anzi 5 e mezza del pomeriggio, è arrivata alle 9 e mezza di sera. Quindi, siccome volevo girare questa cosa con lei non si è presentata, mi sono fidanzato 30 secondi con un'altra persona. Giusto, tappabuchi, cioè proprio non ci sei te, boh, va bene qualsiasi, no? Che tristezza. Comunque, è notevole pensare invece alla visione canina di tutto questo, è più divertente pensare alla visione canina di tutto questo, sì, dove il Bronson di turno dice, anziché ehi, ci vediamo per un aperitivo, ehi, ci vediamo tre crocchette più in là. Esatto. E poi inoltre puoi anche mandare i bau al puoi abbaiare a un tuo amico, ad esempio, gli mandi un abbaio al tuo amico. Puoi stalkerare? Sì, sì, lo puoi stalkerare. Puoi mandare anche messaggi privati. Sì, sì, no, è molto simpatico, devo dire. Zampetta, zampetta, ciotola. Esatto. E oltretutto, come impostazione di applicazione, molto divertente, molto colorata, molto accattivante, ripeto, è molto bella da avere anche proprio sul cellulare, da aprire, da guardare, come potete vedere anche dalle immagini che abbiamo sul nostro sito. Molto divertente, molto simpatica. E tra l'altro il simbolo di questa applicazione è questo beagle, Tobia, che è il beagle appunto di Giuseppe e Peter, quindi molto simpatico. Tra l'altro è un beagle molto simpatico, devo dire, Tobia, in cui non ha mai avuto un solo percorso di educazione, ed è un cane fantastico. Quindi infatti mi stai facendo pubblicità? No, vabbè, effettivamente devo riscontrarla questa cosa qua, e come si dice, quindi molto simpatico. Quindi l'immagine che vedete stilizzata è quella di, appunto, di Tobia, quindi sappiate che il logo ovviamente è quello del cane, del cane dei creatori, dei ideatori di questa applicazione. Quindi colui che ha dato la scintilla, probabilmente. Coloro che hanno dato. Colui, sì, il cane che hanno veicolato la scintilla, eccetera. Che vabbè, comunque, che hanno veicolato. Vabbè, hai capito quello che volevo dire. Dio! Fa niente. Si è appena suicidato un libro di grammatica. Quindi se volete qualche informazione in più potete contattarci tranquillamente ai nostri indirizzi, quindi www.andmoretrainer.com, oppure scaricarvi direttamente l'applicazione che appunto si chiama Bow Wow, Bologna Ancona Udine Whisky Otranto Whisky. Io avrei detto West, però tu Whisky. Oh, vabbè, sai che alcuni anche la J la dicono Juventus, teste. Vabbè, queste cose. Così. Beh, io in questo però ho un aggancio più alcolico, perché la prima cosa che ho imparato in spagnolo è Jota B, JMB, per ricordarmi Jota. Sì. Vabbè. Detto questo, io direi che possiamo dare appuntamento alla prossima settimana, in cui torneremo a parlare di un argomento importante. Quindi il branco. Esatto. Ta-da! Il branco. Mi ho lasciato abbastanza suspense. La gang del branco. La gang del. Vabbè, fa niente. E parleremo appunto di queste cose. Quindi noi vi diamo appuntamento la prossima settimana. Vi salutiamo con estremo affetto. O affettato. E vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Grazie a tutti. Ciao, alla prossima. Ciao. E con questo la nostra puntata finisce qui. Alla prossima. Da Morena e Andrea. Ciao.